16. Il motore Hercules. Con l'occupazione delle sue fabbriche da parte dei tedeschi, Gnome e Tron vide scomparire il proprio know-how. Poiché lo Stato non disponeva delle risorse necessarie per finanziare lo sviluppo di un nuovo motore dopo la guerra, la Snecma acquistò dalla società britannica Bristol la licenza del motore Hercules, con una potenza di oltre 2000 cavalli, per equipaggiare l'aereo da trasporto Noratlas. Questo fu l'ultimo motore a pistoni prodotto dall'azienda, che ne proseguì la produzione fino al 1954.